Effetto Mondo. This will be a non-concession speech. It's the opposite of a concession speech. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Cosa ci hai fatto ascoltare oggi? Nel weekend si sono scatenati e la mia ammirazione per gli americani va anche per questo, perché Saturday Night Live ha fatto delle parodie del discorso di Joe Biden e Kamala Harris che erano stupende. Sanno come divertirsi. Sì, perché veniva fuori insomma che lei avrebbe voluto un po' festeggiare, ma lui veniva raffigurato come, e del resto è stato proprio così, come la persona che aveva addirittura paura a usare la parola lose, attribuendola a Donald Trump come per non offenderlo. Insomma, hanno riso molto di Joe Biden e di Kamala Harris, ma hanno riso molto chi ha voluto sorriso, diciamo, anche dell'atteggiamento di Donald Trump, che per esempio qui nella sì, delimitazione di John DiDomenico dice: questa non è una concession speech, cioè non è il famoso discorso in cui il presidente uscente concede la vittoria al vincitore, è una non concession speech. Perché quello che sappiamo a oggi, nonostante le voci che si rincorrono della moglie Melania, della figlia Ivanka e di alcuni suoi consiglieri che lo spingono a concedere la vittoria, in realtà ci sono i suoi due figli del primo matrimonio che invece lo spingono a non farlo, Rudy Giuliani, che è il principale suo avvocato, ex sindaco di New York, idem. Ha tenuto un discorso nel quale ha detto... E questo naturalmente... Ricorsi. Sulle prime pagine dei giornali americani però ci sono le foto di Joe Biden e di Kamala Harris, o durante fotografati ieri insieme. Per quanto riguarda Biden, che ieri è andato sulla tomba del figlio Beau, morto per una leucemia 5 anni fa, e poi ha fatto alcune dichiarazioni. Il Wall Street Journal parla di questa task force di cui hai detto anche tu nei titoli. Tra l'altro, la buona notizia di oggi è che uno dei vaccini, quello su cui sta lavorando Pfizer, sta mostrando insomma delle buone percentuali di efficacia, oltre di che naturalmente di non nocività. Quindi però, per esempio, lo stesso Wall Street Journal, ma anche il New York Times, sottolineano che quando arriverà il 20 di gennaio, per gli aumenti esponenziali che abbiamo cominciato a conoscere e a capire anche noi molto bene in Europa, la situazione del coronavirus negli Stati Uniti sarà comunque ancora più difficile di adesso, quindi questa task force è più necessaria che mai. E tra l'altro, a proposito sempre di concessions, abbiamo un video del giornalista di Fox News che stasera avrà ospite Mitt Romney, che è senatore repubblicano, che fin dall'inizio ha fatto le congratulazioni a Joe Biden e soprattutto ha cercato di convincere, da quanto si sa, Trump a fare lo stesso. E sentiamo però appunto il giornalista di Fox News che dice, che cerca di spiegare quanto sia strana anche per lui, è lo stesso che aveva fatto quell'intervista che non era piaciuta a Trump, quindi insomma un uomo comunque di indipendente come sì, pensiero, che cerca di spiegare quanto sia strana e di fatto insostenibile questo modo di non concedere la vittoria di Trump. There always are questions about the vote count in various states, and he waited for 90 minutes, Romney did, and then he called President Obama and he conceded. And that is what people do. It's always hard to accept Hillary Clinton. Dice, è sempre difficile accettare. Hillary Clinton, per esempio, ai tempi, 4 anni fa, nel 2016, ci mise fino al mattino successivo. Insomma, non è facile per nessuno una sconfitta di questo genere, specie quando sono così vicine. Però va fatto, perché lo sappiamo, gli Stati Uniti sono in emergenza. Tra l'altro, purtroppo, continuano a fiorire, non sulle prime pagine dei quotidiani, ma su internet, delle teorie di cospirazione che ormai sono, per esempio, uno dei repubblicani che non ha ancora, e credo non lo farà mai, fatto le congratulazioni a Joe Biden, è Newt Gingrich, che era diciamo una specie di Trump ante litteram, qualcuno se lo ricorderà, degli anni 90, un repubblicano molto duro, sì, e adesso ha lanciato questa teoria di cospirazione che ci sarebbe George Soros dietro a questa vittoria di Biden. Naturalmente fatta solo ed esclusivamente attraverso brogli. Io credo che comunque Trump ha preso comunque parecchi voti, più voti dell'altra volta, quindi se lui lo vorrà, credo che il Partito Repubblicano, nonostante tutte le defezioni di cui hai parlato tu, potrebbe controllarlo abbondantemente ancora nei prossimi mesi, io credo, perché comunque certo. ha preso tanti voti. Assolutamente. Il suo stile continua. Va sottolineato, sì. Così come Joe Biden è in assoluto il candidato presidenziale per l'affluenza in aumento e perché la popolazione negli Stati Uniti è costantemente aumentata negli anni, è in assoluto il candidato che ha preso più voti, subito dopo di lui viene Donald Trump, quindi nella storia delle elezioni americane. Perciò rispetto e, come dici tu, riconoscimento di questo dato oggettivo. Non è stata una landslide victory, è stata una vittoria di misura. Se vuoi però sentiamo, io ero appena arrivata al Sole 24 Ore, me lo ricordo molto bene, era il novembre del 2000 quando ci fu la famosa elezione in cui George Bush vinse per veramente poche centinaia di voti, ci fu un riconteggio in Florida, ci volle più di un mese, e qui è Al Gore che tra l'altro scherzando dice, perché aveva già fatto una concession e poi aveva ritelefonato a George Bush dicendo no, qui si stanno ricontando i voti, non posso farti la concession, ma questo succedeva un mese prima, e poi questa è la concession ufficiale di Al Gore nel 2000 a George Bush. Well, in that same spirit, I say to President-elect Bush that what remains of partisan rancor must now be put aside, and may God bless his stewardship of this country. Dice adesso comunque qualsiasi tipo di partisanship, cioè di aver preso delle parti, di aver avuto delle differenze, adesso la mettiamo a part e lavoriamo insieme. Poi ci aggiunge il consueto God bless you che c'è quando in queste concession speech, quindi che Dio ci benedica tutti e benedica l'America. E questo era il punto. Al Gore che definitivamente faceva le congratulazioni a George Bush. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi, torniamo domani, riprenderemo magari ad aggiornarvi anche sul resto del mondo con Effetto Mondo, perché adesso naturalmente questa parte qua è molto ingombrante, ma insomma facciamo questa promessa. Oggi con Pietro Lacorte in regia, Jacopo De Franchi in redazione, vi lasciamo ad Hashtag Autotrasporti. Ciao, buona giornata.